dove viene questa voglia strana di tornare indietro verso un passato che quantomeno non ricordo di aver mai vissuto. E perché, dimmi perché rimango muto come uno sputo scaraventato dalla gola del tempo sul selciato del creato, estraneo a me stesso, al mio corpo, al mio nome, che quando mi masturbo c'ho l'ansia da prestazione. Senza Dio, famiglia, senza una nazione, in cammino nel mondo senza una direzione, tra futuro e passato vola via in un lampo l'esistenza di ogni uomo, anche per me non c'è più scampo. È una commedia infinita perché nessuno mi aiuta, e anche tu, gitana, perché rimani muta? E anche quell'istante che è bloccato, più ci vai dentro più è complicato, più ci vai dentro e più ci trovi l'infinito, perché nessuna astronave ti può portare tanto vicino all'infinito da poterlo toccare. È così vicino agli occhi che non lo puoi vedere, è in quella musica, in quell'odore, è il gusto folle di volerlo cercare. Simme migranti esistenziali spaesa in continua migrazione verso il non si sa, per non impazzire inventiamo un'identità. Ma quando il familiare è il più complesso, sei così sicuro di conoscere te stesso. Chi ero ora sono, chi sono sarò stato, il tuo presente è solo un futuro passato.